Rachel Corey è nata ad Olympia, nello stato di Washington, Stati Uniti. Prima di finire gli studi all'Evergreen State College di Olympia, il 25 gennaio 2003 si unì ad altri volontari stranieri che lavoravano per il Movimento di Solidarietà Internazionale a Gaza. Sì, buon pomeriggio, io sono Alessandro Fabrizi e sono qui con Cristina Spina e, per raccontarvi questo spettacolo che abbiamo fatto insieme, che si chiama appunto Mi chiamo Rachel Corey. E interrompo il flusso della drammaturgia, perché è appunto uno spettacolo particolare che viene da un testo particolare. Quello che ci ha detto Cristina adesso sono i fatti. Questo spettacolo, questo testo prendono spunto da una vita vera e da alcuni scritti di questa ragazza che si chiamava Rachel Corey, pubblicati da un giornale. Alan Rickman, l'attore e regista inglese, e Catherine Viner, una giornalista, sono rimasti colpiti da questi scritti e hanno chiesto alla famiglia di Rachel di leggerne di più e hanno composto un puzzle di schegge di memoria articolato con un suo percorso da tutti gli scritti di questa ragazza, da quando era bambina, quando era adolescente, a quando poi ha deciso di andare appunto a unirsi a questo gruppo di solidarietà internazionale in Palestina, per venire poi infine uccisa da un bulldozer israeliano. Quindi nell'affrontare questi brani, questi frammenti della vita, di una vita vera, nello spettacolo noi abbiamo cercato appunto di sottolineare questo aspetto e Cristina, il percorso che abbiamo costruito per Cristina, per l'attrice Cristina Spina, è stato quello di appunto di incontrare questi brandelli di vita vera, veri referti della vita di Rachel, e mettersi in relazione con questi. Ed è un po' quello che faremo anche oggi pomeriggio, non trattando tutti i brani dello spettacolo, ma quelli più significativi di questo percorso. Alan Rickman e Catherine Viner hanno selezionato non solo i testi riguardanti l'esperienza palestinese di Rachel, ma anche i suoi scritti. Rachel era una ragazza che scriveva molto, che probabilmente voleva diventare una scrittrice, forse una poetessa. Infatti, per esempio, il primo brano con cui ci siamo confrontati è questo pezzetto che riguarda probabilmente l'adolescenza di Rachel. Ogni mattina mi sveglio nella mia camera da letto dipinta di rosso, che mi era sembrata una cosa geniale quando ho deciso il colore, e che di questi tempi mi sembra sempre di più una carneficina. Chiudo gli occhi per un attimo, mi preparo a mettere per iscritto un sogno, ho una pagina del mio diario, a disegnare delle mappe molto importanti. A quel punto il soffitto tenta di divorarmi. Mi dimeno sotto la trapunta alla ricerca di un abiro, di un pastello, di qualsiasi cosa alla svelta. Sento il soffitto che sputacchia e digrigna i denti sopra di me. Sta aspettando che io lo guardi, perché se lo guardo mi potrà divorare. E mi impicco alla ricerca di calzini e pantaloncini, così potrò fare una corsa e cercare qualche cosa per scrivere. Ma non faccio il bucato da un mese. E l'altra ragazza che vive nella mia stanza quando non ci sono, quella cattiva, che coltiva un giardino di tazze sporche e semina vestiti ovunque e rovescia i posaceneri, e l'altra ragazza, quella cattiva, che ha nascosto tutte le mie penne mentre dormivo. Io ci provo. Provo a guardarmi le dita. Provo a guardare il pavimento pieno di riviste di moda lasciate in giro dall'altra ragazza, quella cattiva, per trovare una penna. Mi basta una penna. Ma non riesco a pensare dove potrebbe stare una penna. E sforzandomi di pensarci, abbasso la guardia per un attimo. Il mio sguardo sale verso il cielo e adesso sono fregata. Sono fregata perché non c'è nessun cielo. C'è quel soffitto là in cima. E adesso sono nelle sue mani perché lo sto guardando e di sicuro mi farà a pezzi. Ecco, appunto, Alan Rickman e Catherine Viner hanno deciso di farci incontrare Rachel con questo testo che raccontano inquietudini, un testo onirico, surreale. E poi però ci offrono dei brani in cui viene fuori la coscienza sociale di Rachel e anche certe sue domande esistenziali, come per esempio questo molto bello, in cui nello spettacolo abbiamo con Cristina giocato l'idea che questo sia il momento in cui l'attrice si immedesima di più con Rachel. Ok, sono Rachel. A volte indosso jeans strappati, A volte magliettine in fibra sintetica. A volte mi tolgo tutti i vestiti e nuoto nuda in mare. Non credo nel destino, ma il mio segno astrologico è l'Ariete. E il mio segno zodiacale cinese è la pecora. E il mio nome Rachel significa pecora. Ma ho un fuoco nella pancia. Un tempo era una palla infuocata e così rumorosa che non riuscivo a sentire nessun altro. Così parlavo molto e non ascoltavo granché. Poi sono andata alle medie, dove devi essere fico, forte e tosto. E mi sono sforzata tantissimo di essere all'altezza. Ma per fortuna, mi è capitato di vincere un viaggio gratis per andare in Russia. E ho visto un altro paese per la prima volta. Nelle strade e nei vicoli dovevi fare un percorso ad ostacoli tra immondizia, fango e graffiti. La neve era coperta di polvere di carbone, tutto era sporco. E ci dicevano sempre: «Ma com'è possibile che vi piace la nostra sporca città?» Ah, ma era così carina, con le lucine alle finestre e il riflesso rosso del crepuscolo sui palazzi. Era fatiscente, sporca, distrutta e meravigliosa. Mi sono guardata indietro, attraverso l'Oceano Pacifico. E da quella distanza alcune cose qui ad Olympia, Washington, Stati Uniti, mi sono sembrate strane e sconcertanti. Ma ero sveglia in Russia. Ero sveglia per la prima volta, con gli occhi sgranati e un ghigno sulla faccia. Nel volo di ritorno, nel tratto da Anchorage a Seattle, tutto era buio. Poi ha cominciato a sorgere il sole e l'acqua luccicava e io mi sono resa conto che stavamo volando sopra Puget Sound. Presto avremmo visto le isole in quell'acqua e gli alberi sempre verdi su quelle isole. E ho cominciato a singhiozzare. Ho singhiozzato davanti a tutto quello splendore, nel pieno dell'alba più magnifica che avessi mai visto, perché non bastava. Non bastava a rendermi felice di essere tornata a casa. Forse alla fine sono stati gli alberi a dirmi di restare. Forse andare all'Evergreen State College era semplicemente il modo migliore per distinguermi dallo stile facoltà di economia, altissimi risultati di mio fratello e di mia sorella. Non so perché sono rimasta, ma un giorno ho sentito chiaramente che dovevo restare. E quello stesso giorno ho deciso di fare l'artista e la scrittrice. E non me ne fregava un cazzo se ero mediocre. Non me ne fregava un cazzo se morivo di fame. Non me ne fregava un cazzo se tutta la mia cazzo di scuola si voltava verso di me, mi puntava il dito e mi rideva in faccia. Io ero finalmente sveglia. Ora e sempre. E così, sempre attraverso questi brandelli di vita, questi appunti di vita che Rachel ha lasciato scritti, veniamo a sapere che a un certo punto della sua vita Rachel ha chiesto di far parte di questo movimento di solidarietà internazionale in Palestina. E in un brano, probabilmente da un suo diario, scriveva tantissimo Rachel, scriveva continuamente. In questo brano Rachel si chiede perché ci voglio andare. È poco più di un anno che a Olympia organizzo mobilitazioni contro la guerra e a favore della giustizia sociale. E ho cominciato a sentire che a questo lavoro manca una connessione con la gente che la subisce, la politica estera degli Stati Uniti. Secondo me abbiamo tutti il diritto di criticare le politiche del governo, qualsiasi politica, soprattutto quelle che finanziamo con le nostre tasse. Mi sento piuttosto isolata dal resto del mondo perché ho vissuto ad Olympia per tutta la vita e il mio attivismo fino a questo momento è rimasto profondamente legato ad Olympia. Ma sotto sotto è da un po' che sento questo bisogno di andare da qualche parte per conoscere chi si trova all'altro estremo di tutte quelle tasse con cui viene finanziato l'esercito americano. A un certo punto, tra questi brani, ce n'è uno che ha colpito molto sia Cristina che me, perché è una cosa che abbiamo sentito anche tutti e due negli Stati Uniti, per motivi diversi. Sia Cristina che io abbiamo passato molto tempo negli Stati Uniti, ed è questa curiosa relazione che hanno gli americani con la questione palestinese. E in questo brano Rachel mette proprio a fuoco il cuore della questione, perlomeno così noi abbiamo sentito. La cosa che fa più paura a un americano non ebreo quando parla dell'autodeterminazione dei palestinesi è il timore di sembrare o addirittura di suonare antisemita. Gli israeliani soffrono E gli ebrei hanno una lunga storia di oppressione. Ma credo che sia importante stabilire una distinzione netta tra la politica di Israele come Stato e gli ebrei. È una specie di ovvietà, ma c'è una pressione molto forte affinché le due cose vengano confuse. E io cerco di chiedermi a chi fa comodo che la politica di Israele come Stato e tutto il popolo ebraico vengano percepiti come una cosa sola. Comunque, è a cose del genere che penso continuamente e c'è un'evoluzione nel mio pensiero. Parlare di Israele e di Palestina è una cosa davvero nuova per me e non sempre mi rendo conto delle implicazioni che possono avere le mie parole. Ecco, come dicevo all'inizio, questa scelta di brani di Alan Rickman e Catherine Weiner, che è stata tradotta in italiano da Monica Capuani, è una scelta di brani molto eterogenei che appartengono a sfere diverse della vita di Rachel. E infatti a questo punto incontriamo un racconto abbastanza surreale, abbastanza ellittico di una storia d'amore di Rachel che ci immerge completamente nell'atmosfera da college americano. E, a questo proposito, in tutta la prima parte dello spettacolo abbiamo cercato non tanto di mettere di costruire un tessuto sonoro di musiche fatte apposta, ma di utilizzare brani che abbiamo immaginato oppure sapevamo Rachel ascoltava. In questo caso abbiamo usato due brani dei Magnetic Fields. Ed è anche, trovo, molto interessante come la vita privata si intrecci con la vita sociale, e sentirete poi alla fine di questo brano quanto i motivi poi delle scelte di Rachel, anche della scelta di andare in Palestina, potrebbero, perlomeno così ci suggeriscono Rickman e Weiner, aver avuto a che fare anche con questioni private. Di Colin ho esattamente i ricordi di cui ho bisogno. Di mattina splendeva il sole e Colin leggeva libri di economia politica sulla sedia verde. Io ballavo sulla musica dei Magnetic Fields e rasavo il prato. Andavamo a scuola a piedi tutte le mattine, finché un giorno si è messo a piovere. E Colin voleva che io camminassi più in fretta. Colin voleva sempre camminare più in fretta. Io volevo arrancare e riconoscere le felci. Un giorno mi sono svegliata presto con delle commissioni da fare e ho deciso che avrei incontrato per caso Colin e la sua nuova ragazza col culo da puttanella. Io mi depilo le ascelle e mi metto di fronte allo specchio a ballare con indosso una gonna attillata che ho trovato nella sezione per bambini piccoli dell'Esercito della Salvezza. Mi imbratto di lucida labbra e mi dico quanto mi diverto, quanto mi diverto. Immagino di vivere in una pubblicità della Fanta. Sono sempre sulla spiaggia con una comitiva di amici muscolosi e stiamo sempre a ballare. Vago per il centro. Quei due sono qui, da qualche parte, probabilmente in un angolo scuro, abbarbicati uno all'altra. Gli cadranno i cucchiaini del milkshake alla fragola quando gli passerò davanti, libera come un fringuello, quanto mi diverto. Ma quei due non sono al caffè. Non sono neanche al negozio di alimentari, sul ponte, al chiosco dei giornali. Guido fino a scuola imbarazzata da me stessa. Ovviamente, lui emerge dalla biblioteca, senza la ragazza col culo da strappona. Questa città non è grande abbastanza per tutti e due. Ehi, ehi. Ehi, ehi. E che ci fai qui? Do una letta a certi giovani anarchici. Lancia le parole come elastici tesi fino al limite e poi lasciati andare. Io eseguo come una danza in mezzo alla conversazione, come se dovessi fare pipì. E mi ripeto quanto mi diverto, quanto mi diverto, quanto mi diverto. Come stai? È a disagio. Io sorrido, il sole splende sulle mele delle mie guance. Bene, bene, sto bene, mi vedo con un po' di gente. E tu come stai? Bene, ho trovato un lavoro, faccio pulizie nei bagni. Ah, carino! Lo sai, la mia amica del North Carolina se n'è tornata a casa. Ah, ma come, c'era un'amica del North Carolina? Lo sai, Leslie. Il sole splende sulle mele delle mie guance. Le ciglia mi si appiccicano, io sono sulla spiaggia e sto sempre a ballare. Ma cazzo, Colin, ma che cosa è successo se le cose stavano andando così bene? Ha scosso la testa, ha riso. Ti innamori di qualcuno che è costantemente in procinto di lasciarti. Uno che ti batte a scarabeo e parla per paroloni e ti racconta qualsiasi storia come se fosse una canzone blues. Memorizzi i lineamenti di qualcuno che ha gli occhi costantemente annoiati e le labbra costantemente divertite. Alla fine ho convinto Colin a smetterla di prosciugare la mia esistenza. La topografia della sua vita era fatta di botte e di adrenalina, galera, esperienze vicino alla morte. La topografia della mia vita consisteva nell'inventare dei nomi per i gatti del vicinato, qualche volta nello scrivere una piccola nuova poesia o nel fare pettegolezzi con gli amici. La sua vita era un grattacielo. La mia vita si svolgeva su scala molto più ridotta. Ora tutto questo è finito e c'è più proporzione. Tutti siamo venuti al mondo e tutti un giorno dovremo morire. Molto probabilmente in una certa misura da soli. E se questa solitudine non fosse una tragedia? Se la solitudine fosse quello che ci consente di dire la verità senza aver paura? Se la nostra solitudine fosse la cosa che ci permette di avventurarci, di fare esperienza del mondo come una presenza dinamica, come una cosa mutevole, interattiva? Non sono in grado di raffreddare le acque bollenti in Russia. Non posso essere Picasso e non posso essere Gesù. Non sono in grado di salvare il pianeta con le mie sole mani. Sono capace di lavare i piatti, però. Sì, e a questo punto inizia la seconda parte dello spettacolo e della storia della vita di Rachel. Ed è il momento appunto in cui decide di partire, parte, effettivamente va in Palestina. E qui Paola Gandolfi ha avuto una bellissima idea di fare una gigantografia di una cartina della Palestina, e quindi Cristina srotola questa cartina sul palcoscenico e inizia a muoversi sulla cartina in questa appunto seconda parte dello spettacolo. Per introdurre questa parte abbiamo chiesto anche a Riccardo Gianni di scrivere un pezzo che in qualche modo evocasse i colori, le atmosfere, gli odori che ci arrivano dai ricordi di Rachel. E lo sentiamo un momento. Quello che sappiamo dei mesi passati in Palestina da Rachel, che poi sono pochi, no? Cristina, sono 3 mesi? Sì, all'incirca, quasi 2 mesi e mezzo, 3. E lo sappiamo di nuovo dalle pagine dei suoi diari o di lettere o email che ha scritto a genitori ed amici. Ce n'è una in particolare in cui inizia nei primi brani Rachel sembra ancora un po' curiosa, un po' stupita, un po' soprattutto a confronto con quello che non si aspetta, e anche col suo non rendersi conto bene di dove sta, finché arriva questo brano appunto che risponde al primo febbraio, la data del primo febbraio del suo diario. Dopo aver aiutato quelli dell'acqua a fare altre riparazioni, siamo andati a cercare la stoffa per lo striscione. Quando è arrivata Jeanne, ha trovato me e Will che aspettavamo di pagare al tizio 30 metri di cotone bianco. Ci ha detto che qualcuno era stato ucciso al confine tra Rafa e l'Egitto. Ci siamo dati appuntamento a casa e a bordo di un SUV stranamente californiano siamo andati oltre il cimitero, verso il lato palestinese del confine. C'era uno stuolo di gente che aspettava lì. Ci hanno dato una barella e ci hanno fatto strada dentro un edificio. Abbiamo parlato un po' e poi siamo usciti tenendo ognuno un manico della barella. Ci siamo avviati, 5 volontari internazionali più Jeanne, e Jenny parlava al megafono. Non sparate, siamo civili disarmati. E ha nominato i nostri paesi di provenienza e comunicato all'esercito israeliano la nostra intenzione di recuperare questo corpo. La prima reazione dei soldati è stata gridare, tornate indietro. Poi hanno sparato a circa 20 metri davanti a noi. Dato che abbiamo continuato a camminare in direzione del cadavere, Gli spari si sono fatti più vicini, colpendo il terreno 3 o 4 metri davanti a noi. Abbiamo anche sentito il rumore acuto e sibilante di 2 spari che volavano sopra le nostre teste. A quel punto noi ci siamo fermati. Jenny ha chiesto di parlare con l'ufficiale capo. È arrivato un furgone bianco con una luce blu. Il tipo dal furgone ha parlato con l'autoparlante. Ci ha detto di andarcene. Ha dichiarato: riavrete il corpo più tardi. Il furgone bianco è filato via. Poi un carro armato e un bulldozer sono emersi dal lato del posto di blocco controllato dall'esercito, diretti verso l'uliveto. Hanno incominciato a spostare la terra tra noi e l'uliveto. Si è alzato il fumo. Hanno creato un cumulo di terra e ci hanno sparato dentro ripetutamente. E anche qui, anche in Palestina, comunque il materiale che è rimasto dei giorni di Rachel è molto eterogeneo e ci porta in contatto anche con delle diverse sensazioni, dei diversi pensieri che lei deve aver avuto in questi giorni. A un certo punto anche pensieri di fine, cioè probabilmente a un certo punto Rachel ha seriamente pensato che la sua esperienza poteva concludersi lì e poteva ritornarsene a casa. E quindi anche in un foglietto di carte da qualche parte troviamo appuntate delle possibili scelte. 1. Tornare ad Olimpia, finire la scuola, intervento iniziative su Gaza, liberare il garage di Sara dalle mie cose. 2. Andare in Egitto o a Dubai per un anno, guadagnare dei soldi, imparare l'arabo, tornare in Palestina. Andare in Svezia per un mese. No, potenzialmente orrendo, rimango senza un soldo. 4. Cercare di rimanere a Rafa. Soldi, produttività. 5. Viaggiare da qualche altra parte. Penso che la mia sia un'anima nomade. Ho sempre teso l'orecchio sull'autobus quando qualcuno dietro di me parlava spagnolo. Ho sempre alzato lo sguardo verso gli aerei che disegnavano dei tracciati bianchi nel cielo domandandomi dove fossero diretti. Sono sempre stata invidiosa degli uccelli migratori. Tra un anno, o 2, o forse l'inverno prossimo andrò in Sud America. Lancerò un sorriso sull'acqua ad Olympics. Quando partirò, percorrerò i su e giù di quella strada che ho percorso per tutta la vita. E mi affaccerò dal finestrino quando passerò davanti alla mia vecchia scuola e griderò: ehi, ehi, ehi, vaffanculo, vaffanculo! Giusto in onore dei vecchi tempi. Quando partirò, partirò ridendo. Tornerò a trovare mia madre e i miei amici del college e a nuotare nuda a Puget Sound di notte. E non avrò paura di tornare come ho sempre avuto paura prima. Piangerò, ma sorridendo, e abbraccerò la mia mamma. Don't fall in love with me, yet we only recently met. True, I'm in love with you, but you might decide I might not. Give me a week or two to go absolutely cuckoo. Then when you see your error, then you can flee in terror. Like everybody else does, I'll only tell you this, cause I'm easy to get rid of. But not if you fall in love, and now that I'm on the make. And if you make a mistake, my heart will certainly break. I'll have to jump in a lake. Don't fall in love with me, yeah. We only recently met. True, I'm in love with you, but you might decide I might not. Give me a week or two to go absolutely cuckoo. And when you see your error, then you can flee in terror. Like everybody else does, I only tell you this, cause I'm easy to get rid of. But not if you fall in love. Ecco, così attraverso questo bosco di ricordi, di brani, di frammenti, arriviamo all'ultimo brano che hanno posto alla fine di questo percorso, Alan Rickman e Catherine Viner, che è una lettera che Rachel scrive alla mamma. Mamma, ho fatto brutti incubi di carri armati e bulldozer fuori dalla nostra casa. E io e te eravamo dentro. A volte l'adrenalina agisce come un anestetico per giorni. E poi di notte un po' della realtà della situazione si fa sentire di nuovo. Ho veramente paura per la gente di qua. Ieri ho visto un padre che scappava con due bambini piccoli, tenendo la mano alzata in direzione dei carri armati, delle torrette, dei bulldozer, perché pensava che avrebbero fatto esplodere la sua casa. È stato un nostro errore di traduzione a farglielo credere. Anche se sono certa che sia solo una questione di tempo. Infatti, l'esercito israeliano stava facendo detonare un esplosivo nel campo vicino. Non riesco a credere che quest'uomo abbia ritenuto meno rischioso uscire allo scoperto coi suoi bambini davanti ai carri armati piuttosto che restare in casa. Ho davvero temuto che gli sparassero addosso e ho cercato di mettermi tra loro e il carro armato. Cose del genere succedono tutti i giorni, ma questo papà, uscito coi suoi due bambini e un'aria così triste, ha attirato la mia attenzione più degli altri in questo particolare momento. Forse perché mi rendevo conto che era stato un nostro problema di traduzione a farlo uscire. Sai, mamma, ho pensato molto a quello che hai detto sul fatto che la violenza palestinese non aiuta la situazione. 2 anni fa, 60.000 abitanti di Rafah lavoravano in Israele. Ora solo 600 di loro possono andarci per ragioni di lavoro. Di questi 600, molti si sono trasferiti, perché i 3 posti di blocco trasformano un tragitto in macchina di 40 minuti in una odissea di 12 ore o in un viaggio impraticabile. Tutte le fonti di crescita economica sono completamente distrutte. L'aeroporto, tutte le piste demolite, il confine per il commercio con l'Egitto, l'accesso al mare è completamente inaccessibile negli ultimi 2 anni. È assurdo, ma qui un tempo esisteva una classe media. Non molto tempo fa. Ci hanno riferito che in passato la spedizione di fiori da Gaza verso l'Europa veniva ritardata di 2 settimane a causa di ispezioni di sicurezza. Ti puoi immaginare quanto valgono dei fiori tagliati 2 settimane prima? Quindi il mercato si è esaurito. E poi arrivano i bulldozer e radono al suolo le fattorie che coltivano ortaggi e i giardini. Cosa resta alla gente? Dimmi se ti viene in mente qualche cosa, perché a me no. Perciò quando qualcuno dice che qualunque gesto di violenza palestinese giustifica le azioni di Israele, non solo contesto questa logica in base al diritto internazionale e al diritto legittimo di un popolo alla lotta armata per difendere la propria terra e le proprie famiglie. Non solo contesto questa logica in base alla 4ª Convenzione di Ginevra, che proibisce le punizioni collettive, l'espropriazione di risorse idriche e la distruzione di infrastrutture civili come i campi coltivati. Non solo contesto questa logica in base alla consapevolezza dell'impatto relativo che fucili russi vecchi di 50 anni ed esplosivi fatti in casa possono avere sulle attività di uno degli eserciti più grandi del mondo appoggiato dall'unica superpotenza del mondo, ma contesto questa logica anche in base al buon senso. Se chiunque di noi vedesse la propria vita e il proprio benessere completamente strangolati e vivesse con dei bambini in uno spazio sempre più ristretto, sapendo che soldati, carri armati e bulldozer potrebbero arrivare a prenderci in qualsiasi momento, senza mezzi di sostentamento economico e con la casa distrutta, se venissero a distruggere tutte le serre che abbiamo coltivato da chissà quanto tempo, non credi in una situazione simile che la maggior parte della gente si difenderebbe come meglio può? Con chi credi che passi il mio tempo? In case che stanno per essere demolite e in mezzo alle sparatorie? Chi credi che affolli i centri per i diritti umani? Cosa credi che sia questo movimento palestinese al quale mi sono unita, che si impegna nell'azione diretta non violenta? Chi credi che siano queste famiglie di cui ti racconto, che non prendono soldi da noi anche se sono povere, poverissime, e ci dicono: non siamo un albergo, vi aiutiamo perché pensiamo che forse andrete a dire alla gente del vostro paese che vivete con i musulmani. Forse capiranno che siamo brava gente, vogliamo solo la pace. Ma pensi che me ne vado in giro con i guerriglieri di Hamas? A questa gente sparano addosso ogni giorno e loro continuano a occuparsi delle loro cose meglio che possono, sotto il tiro delle mitragliatrici e dei lanciarazzi. Questo è un momento molto duro per me. Mi viene la nausea al pensiero di essere coccolata in maniera così dolce da gente che affronta la catastrofe. Lo so che dagli Stati Uniti tutto questo sembra iperbolico. Tante volte la gentilezza delle persone qui, unita alla deliberata distruzione delle loro vite, mi fa sembrare tutto così irreale. Non posso credere che nel mondo possa accadere una cosa del genere senza che si scateni un'enorme indignazione. Mi ferisce. Come mi ha ferito in passato vedere quanto orrore siamo disposti ad accettare nel mondo. Da tanto tempo mi comporto con la determinata convinzione interiore che dentro siamo tutti fondamentalmente uguali e che le nostre differenze dipendono prevalentemente dalle condizioni esterne. Questo vale per tutti. Bush, Bin Laden, Tony Blair, io, tu, Sara, Chris, papà, nonna, i palestinesi e per chiunque altro, di qualunque religione sia. Lo so che c'è una buona probabilità che questa convinzione in realtà sia falsa, ma può essere utile, perché porta sempre a interrogarsi sul modo in cui il privilegio ripara la gente dalle conseguenze delle sue azioni. È utile perché induce a un certo grado di perdono. Forse sono il mio egoismo e la mia volontà di essere ottimista, che mi spingono a voler credere che persino i più privilegiati non se ne stanno solamente seduti a guardare con le mani in mano. Il prezzo che si sta pagando qui è davvero crudele. Può darsi che l'aumento dello squilibrio di classe nel mondo e la conseguente distruzione delle vite dei lavoratori siano un male ancora peggiore. Stare qui dovrebbe rendermi più consapevole di cosa significa essere un contadino in Columbia, per esempio. Comunque, sto divagando. Volevo solo dire alla mia mamma che sono davvero spaventata e che sto mettendo in dubbio la mia profonda fiducia nella bontà della natura umana. Questo deve finire. Penso che sia una buona idea per tutti noi mollare tutto e dedicare la nostra vita a far sì che questo finisca. Non penso più sia una cosa estremista da fare. Oh, io voglio ancora scatenarmi al ritmo di Pat Benatar e avere dei fidanzati e far ridere i miei amici. Ma voglio anche che questo finisca. Incredulità, orrore, delusione sono le cose che sento. Sono delusa del fatto che questa sia la realtà nuda e cruda del nostro mondo e che noi, alla fine dei conti, ne siamo partecipi. Questo non è affatto quello che ho chiesto quando sono venuta al mondo. E questo non è affatto quello che la gente di qui ha chiesto quando è venuta al mondo e non è quello che chiedono ora. Quando tornerò dalla Palestina, probabilmente avrò gli incubi e mi sentirò perennemente in colpa per non essere lì. Ma posso prendere questo senso di colpa e convertirlo in altro lavoro. Venire qui è una delle cose migliori che abbia mai fatto. Vi voglio bene, a te e a papà. Scusami per l'invettiva. Ok. Strani uomini mi stanno offrendo dei piselli, quindi devo andare ed assaggiarli e ringraziare. Ecco, a questo punto non ci sono più parole di Rachel. E alla fine di questo anomalo testo teatrale composto da Rickman e Weiner c'è invece la trascrizione della deposizione di un testimone oculare che dice: Rachel si è andata a mettere tra la casa e il bulldozer. Quando il bulldozer ha cominciato a puntare dritto verso di lei, ha avuto circa 20 metri e 10 secondi abbondanti di tempo durante i quali Rachel è rimasta chiaramente all'interno del suo campo visivo per vedere dov'era. Ha continuato ad avanzare verso di lei a una certa andatura, con un mucchio di terra che gli si ingrossava davanti. E quando il mucchio di terra è arrivato fino a Rachel, lei evidentemente ha sentito che per riuscire a mantenere l'equilibrio, per riuscire a rimanere in piedi, doveva salire su quel mucchio di terra per evitare di venire travolta. Quando ci è salita sopra, quel movimento ha fatto sì che la sua testa e le spalle si sollevassero in maniera evidente al di sopra della parte superiore della fessura del bulldozer e quindi lei è apparsa chiaramente davanti agli occhi dell'autista del blindato. Perciò lui sapeva con certezza che lei era là. Rachel cade sotto il mucchio di terra e scompare alla vista dell'autista. Quindi lui in pratica l'ha spinta ancora più avanti sotto il mucchio di terra. E allora lei comincia a scivolare e poi abbiamo visto un piede, poi tutti e due i piedi scomparire. E lui ha semplicemente continuato ad avanzare finché lei, o il punto in cui lei si trovava prima, non si sono venuti a trovare proprio sotto la cabina di pilotaggio del bulldozer. Hanno aspettato qualche secondo, poi sono indietreggiati, lasciando la scavatrice del bulldozer a terra. Solo più tardi, quando il bulldozer si è scostato un po' di più dal corpo, hanno alzato la scavatrice. Sono corso a cercare un'ambulanza. Lei ansimava e aveva il volto coperto di sangue per uno squarcio che le tagliava la faccia dal labbro alla guancia. Mostrava i segni di un'emorragia cerebrale. È morta in ambulanza qualche minuto dopo. Rachel Corey è stata uccisa il 16 marzo 2003.